Capitolo 15. Anna andò a Bonnyview il venerdì sera precedente il matrimonio. I Nelson davano un pranzo per gli amici e gli invitati che arrivavano con il treno. La casa al mare del dottor Nelson era una grande ed estesa costruzione che sorgeva tra gli abeti rossi su un lungo promontorio proteso nella baia, con una lingua di dune dorate modellate dalla furia dei venti. Ad Anna piacque subito. Le vecchie case di pietra sono riposanti e piene di dignità, non temono né la pioggia, né il vento, né le mode. In quella serata di giugno la vecchia casa era straordinariamente animata. Risa di ragazze, saluti tra amici di lunga data, un andare e venire continuo di carrozzini, corse di bambini, arrivo di doni, insomma l'allegra confusione di tutti i matrimoni. I due gatti neri del dottor Nelson, dai nomi altisonanti di Barnaba e Saul, se ne stavano sulla balaustra della veranda, sorvegliando tutto come due imperturbabili sfingi scure. Sally si liberò dall'abbraccio di parenti e amici e accompagnò di corsa Anna al piano di sopra. «Ti abbiamo riservato la baina nord. Naturalmente dovrai dividerlo con altre tre persone. Siamo nel caos più totale. Papà farà montare una tenda per i ragazzi, tra gli abeti». E più tardi sistemeremo delle brande nel portico con la vetrata sul retro. E i bambini li infileremo per lo più nel fienile. Oh, Anna, sono tanto emozionata! È divertentissimo sposarsi. L'abito da sposa è arrivato oggi da Montreal. È un sogno, è un modello di seta amarezzata color panna, con un ampio colletto di pizzo e ricami di perline. E sono arrivati dei regali bellissimi. Questo è il tuo letto. Gli altri sono per Mami Gray, Dot Fraser e Sis Palmer. La mamma voleva metterci Amy Stewart, ma io non ho voluto. Amy non ti può vedere, perché voleva essere lei la damigella d'onore, ma non potevo scegliere una damigella grassa e tozza, no? E poi con quell'abito verde acqua ha un colorito da mal di mare. Oh, Anna, c'è la zia Mauser. È arrivata pochi minuti fa e siamo tutti terrorizzati. Certo era invitata, ma non pensavamo che venisse prima di domani mattina. E chi mai è la zia Mauser? È la zia di papà, la signora James Kennedy, in effetti. Oh, la chiamiamo zia Grace, naturalmente, ma Tommy l'ha soprannominata zia Mauser, perché ficca sempre il naso dappertutto e scova quello che non vorremmo farle scoprire. Non c'è modo di sfuggirle. Arriva al punto di alzarsi la mattina presto per paura di perdere qualcosa ed è l'ultima ad andare a dormire la sera, ma c'è di peggio. Se c'è qualcosa di inopportuno da dire, si può star certi che la dirà, e non ha mai imparato che certe domande non bisogna farle. Papà chiama ai suoi discorsi le frasi felici della zia Mauser. So che rovinerà il pranzo. Attenta, eccola! La porta si aprì ed entrò la zia Mauser, una donnina bruna dagli occhi sporgenti, accompagnata da una scia di naftalina e da un'espressione di perenne preoccupazione. A parte l'espressione, assomigliava davvero molto a un gatto da topi. Così, lei è la signorina Shirley. Ho sentito tanto parlare di lei. Del tutto diversa dalla signorina Shirley che conoscevo io. Aveva degli occhi magnifici, lei. Beh, Sally, così ti sposi finalmente, eh? Ora la povera Nora resterà sola, eh? Beh, per fortuna tua madre si è liberata di cinque figliole. 8 anni fa le ho detto, Jane, credi che riuscirai a maritarle tutte quelle ragazze? Beh, gli uomini non danno altro che guai e non c'è rischio più grande del matrimonio, ma che altro può fare una donna a questo mondo? È quello che ho appena finito di dire alla povera Nora. Dammi retta, le ho detto, non c'è proprio gusto a diventare vecchie zitelle. Ma Jim Wilcox che intenzioni ha? Le ho detto. Oh, zia Grace, perché le hai detto questo? Jim e Nora hanno bisticciato lo scorso gennaio e lui non si è più fatto vedere. Io dico sempre quello che penso, è meglio parlare che tacere. Ho saputo di quel litigio, proprio per questo le ho chiesto di lui. È giusto che tu sappia, l'ho avvertita, che si dice che esca con Eleanor Pringle. È diventata rossa come il fuoco e ha cominciato a dare in ismanie. Che ci fa qui, Vera Johnson? Non è vostra parente? Oh, Vera è sempre stata una carissima amica, zia Grace, suonerà la marcia nuziale. Oh, guarda, guarda. Beh, spero solo che non si sbagli e che non suoni la marcia funebre, come ha fatto la signora Tom Scott al matrimonio di Dora Best. Proprio di cattivo augurio. Non so proprio dove metterete tutta questa gente stanotte. Credo che qualcuno dovrà stendersi sulla corda del bucato. Oh, troveremo un posto per tutti, zia Grace. Beh, Sally, spero solo che tu non cambi idea all'ultimo momento come Helen Summers. Crea una confusione terribile. Tuo padre ha il morale alle stelle e io non sono certo una che pensa male, ma spero solo che non siano le avvisaglie di un infarto. Ho visto spesso che succede così. Oh, papà sta benissimo, zia Grace, è solo un po' agitato. Ah, Sally, sei giovane, non sai come vanno queste cose. Tua madre mi ha detto che la funzione è domani a mezzogiorno. Anche per le nozze cambiano le mode, come per tutto il resto, e non per il meglio. Quando mi sono sposata io era sera e mio padre aveva messo in serbo 80 litri di liquori per le nozze. Eh già, non sono più i tempi di una volta. E che cosa ha Mercy Daniels? L'ho incontrata sulle scale e aveva un'aria tanto tirata. La clemenza a natura non forzata, citò ridendo Sally mentre si infilava l'abito da sera. Non citare la Bibbia con irriverenza, la redarguì la zia Mauser. Deve scusarla, signorina Shirley, non ci si sposa tutti i giorni. Beh, spero solo che lo sposo non abbia l'aria del cane accalappiato, come succede di solito. Credo che si sentano tutti così, ma non dovrebbero darlo a vedere. E spero che non dimentichi l'anello. Upton Harty lo dimenticò, davvero. Per sposarsi con Flora usò gli anelli che reggevano le tende. Beh, andrò a dare un'altra occhiata ai doni di nozze. Hai ricevuto un mucchio di belle cose, Sally. Spero solo che lucidare i manici di quei cucchiai sia meno difficile di quanto sembra. Quella sera il pranzo nel grande portico a vetrate riuscì benissimo. Le lanterne cinesi appese a soffitto gettavano luci soffuse sui begli abiti, le chiome setose, i visi lisci delle ragazze. Barnaba e Saul sedevano come due statue d'ebano sugli ampi braccioli della sedia del dottore e ricevevano a turno bocconcini prelibati. Quasi come Parker Pringle, disse la zia Mauser. Faceva addirittura stare il cane a tavola con tanto di sedie e tovagliolo. Beh, prima o poi per tutti verrà il giorno del giudizio. Era una tavolata numerosa, poiché c'erano tutte le sorelle Nelson già sposate, con i rispettivi mariti, oltre ai testimoni per lo sposo e per la sposa. Ma era anche una tavolata allegra, nonostante le frasi felici della zia Mauser, o forse proprio grazie a esse. Nessuno la prendeva sul serio. Evidentemente era lo zimbello di tutti i giovani della famiglia. Quando, presentata a Gordon Hill, disse: Oh, è proprio diverso da come la immaginavo. Pensavo che Sally avrebbe scelto un bel pezzo d'uomo. Il portico risuonò di risate. Gordon Hill, che era bassotto e giudicato al massimo discreto anche dai migliori amici, capì che quella era una battuta destinata a durare. E quando disse ad Ott Fraser: Oh, tutte le volte che ti vedo hai un abito nuovo, spero solo che tuo padre possa permetterselo ancora per qualche anno. Dot l'avrebbe fatta a pezzi, ma alcune delle altre ragazze trovarono la battuta divertente. E quando la zia Mauser commentò pessimisticamente, osservando i preparativi per il pranzo di nozze, spero solo che alla fine non manchino i cucchiaini d'argento, ne sparirono cinque al matrimonio di Gertie Pohl e non sono più saltati fuori. La signora Nelson, che ne aveva preso in prestito tre dozzine, e le cognate da cui le aveva prese in prestito assunsero un'aria angosciata, ma il dottor Nelson scoppiò in una risata sonora. Faremo rovesciare le tasche a tutti prima di lasciarli andar via, zia Grace. Ridi pure, Samuel, non c'è proprio niente di divertente quando succedono certe cose in famiglia. Eppure quei cucchiaini saranno bene in casa di qualcuno. Dovunque vado tengo gli occhi bene aperti, li riconoscerei subito anche se sono passati 28 anni. La povera Nora era ancora in fasce, ricordi, Jane? Aveva un vestitino bianco ricamato. 28 anni. Ah, Nora. Il tempo passa anche per te, eh? Ma con quella luce dimostri meno degli anni che hai. Nora non si unì al coro di risate, era furibonda e lo dimostrava. Nonostante l'abito color giunchiglia e le perle tra i capelli neri, sembrava una falena notturna, pensò Anna. Al contrario di Sally, che era una bionda di carnagione nivea, Nora Nelson aveva magnifici capelli neri, occhi di un azzurro cupo, sopracciglia nerissime e guance rosse. Il suo naso incominciava ad assumere una conformazione aquilina e non era mai stata considerata carina, ma Anna si sentì stranamente attratta da lei, nonostante l'espressione imbronciata e risentita. Sentiva che come amica avrebbe preferito Nora all'estroversa Sally. Dopo il pranzo fecero qualche giro di danza. Fiotti di musica e risa uscirono allora dalle larghe e basse finestre della vecchia casa di pietra. Alle 10 Nora scomparve. Anna era un po' stanca dall'atmosfera rumorosa della festa. Sgusciò nell'ingresso, varcò una porta affacciata sulla baia e scese leggera e silenziosa fino alla spiaggia, giù per una scaletta scavata nella roccia. Attorno svettavano le cime di un boschetto di abeti. Che divino piacere, quell'aria fredda e salmastra, dopo tante ore trascorse al chiuso, che incanto osservare i giochi di luce argentei della luna sull'acqua, che visione di sogno la nave, che, salpata al sorgere della luna, stava ora avvicinandosi all'imboccatura del porto. In una notte come quella poteva anche diventare realtà un ballo con le sirene. Nora era sulla riva, rannicchiata all'ombra di uno scoglio, più immusonita che mai. Posso sedermi un po' qui? Chiese Anna. Sono stanca di ballare ed è un peccato perdere questa magnifica serata. Siete da invidiare voi che avete tutta la baia davanti. Come ti sentiresti in un momento come questo se non avessi un fidanzato? Chiese a un tratto Nora con tono cupo. Nemmeno la più pallida ombra di fidanzato, aggiunse con tono ancora più cupo. È solo perché non lo vuoi? Disse Anna sedendosi accanto a lei. Nora ebbe istinto di confidarsi con Anna. Anna tirava sempre le confidenze altrui. Lo dici per non essere scortese, naturalmente. Ti ringrazio, sai quanto me che non sono il tipo da far innamorare gli uomini. Io sono la brutta delle sorelle Nelson. E non è colpa mia se non ho nessuno. Non potevo più resistere là dentro. Dovevo scendere qua giù e sfogare la mia tristezza. Sono stanca di sorridere, di fare convenevoli e di fingermi indifferente quando mi lanciano frecciate perché non sono ancora sposata. Non sono indifferente, mi importa, è come. Delle sorelle Nelson ora in casa resto solo io. Quattro già sposate e una che si sposerà fanno cinque. Hai sentito la zia Mauser che spiattellava la mia età a tavola? E prima di pranzo l'ho sentita mentre diceva alla mamma che ero un po' invecchiata dall'estate scorsa. E ci sfido, ho 28 anni. Tra 12 ne avrò 40. Oh, Anna, come potrò sopportare di vivere a 40 anni se non mi sarò ancora sistemata? Oh, non darei tanto peso alle parole di una vecchia chiacchierona. Ah, davvero? Si vede che non hai un naso come il mio. Tra 10 anni avrò un becco come quello di mio padre e magari. Non ti importerebbe nemmeno che un uomo non ti chiedesse in moglie dopo averti tenuto in ballo per anni. Oh sì, credo che di quello mi importerebbe. Beh, questa è esattamente la mia situazione. Oh, so che hai sentito parlare di me e Jim Wilcox. È una storia vecchia, erano anni che mi ronzava attorno, ma non ha mai parlato di matrimonio. Ci tieni a lui? Certo che ci tengo. Ho sempre finto di non tenerci, ma te l'ho già detto, ora sono stanca di fingere. È da gennaio che non si fa più vedere. Abbiamo litigato come centinaia di altre volte. Prima era sempre tornato, ma questa volta non è tornato e non tornerà più. Non vuole. Guarda laggiù, al di là della baia, la sua casa brilla alla luce della luna. Ecco, lui è là e io sono qui. E tra di noi c'è la baia. E sarà sempre così. È terribile e non posso farci niente. Se tu lo mandassi a chiamare, tornerebbe? Mandarlo a chiamare? Non lo farei mai. Piuttosto preferirei morire. Se vuole venire, nessuno glielo impedirà. Altrimenti non voglio che. E invece sì, lo voglio. Amo Jim e voglio sposarmi. Voglio avere una casa mia, essere chiamata signora e tappare la bocca alla zia Mauser. Oh, vorrei essere Barnaba o Saul, solo per un attimo per poterla mandare al diavolo se mi chiama ancora povera Nora. Io le tiro addosso la paletta del carbone. Ma dopo tutto, dice solo quello che gli altri si limitano a pensare. Ormai la mamma è convinta che non mi sposerò più e mi lascia in pace, ma gli altri mi tormentano. Detesto Sally. Lo so che è una cosa orribile, ma la detesto. Presto avrà un marito simpatico e una bellissima casa. Non trovo giusto che a lei tocchi tutto e a me niente. Non è più buona, più intelligente o tanto più carina di me. È solo più fortunata. Penserai che sono cattiva. Del resto non mi importa di quello che pensi. Oh, penso solo che queste settimane di preparativi e di tensione ti devono avere stancata moltissimo, e quello che di solito sopporti a denti stretti ora ti sembra insopportabile. Tu mi capisci? Oh, lo sapevo che ne eri capace, è da tanto che desidero esserti amica, Anna Shirley. Mi piace come ridi, vorrei saper ridere come te. Non sono musona come appaio. È per via delle sopracciglia, credo facciano scappare gli uomini. Non ho mai avuto una vera amica in vita mia. Però avevo Jim. Siamo sempre stati amici, fin da bambini. Lasciavo la luce accesa alla finestra della soffitta se avevo bisogno urgente di lui e lui arrivava subito in barca. Andavamo insieme dappertutto. Non sarei andata con nessun altro, ammesso che qualcuno lo volesse. Ora è tutto finito. Era stanco di me e la scusa del litigio gli è servita per liberarsi di me. Oh, domani ti odierò per averti detto tutto questo. Perché? Si prova odio per chi scopre i nostri segreti, disse Nora con voce cupa. Ma i matrimoni mi fanno sempre uno strano effetto. E poi non mi importa, non mi importa niente di niente. Oh, Anna Shirley, sono tanto infelice. Fammi piangere sulla tua spalla. Devo assolutamente sorridere e avere un'aria felice domani. Sally crede che non voglia farle da damigella d'onore per superstizione. Conosci il vecchio adagio, tre volte damigella, mai sposina bella. Ma non è così, non potrei sopportare di sentir dire sì, sapendo che non potrò mai dirlo a Jim. Mi metterei a gridare a squarciagola. Voglio anch'io essere la sposa, avere il corredo, la biancheria cifrata e i regali. Anche il piattino d'argento per il latte della zia Mauser. Alle spose regala sempre il piattino per il burro, un orribile oggetto con un coperchio che sembra la cupola di San Pietro. Lo farei mettere sulla tavola della prima colazione per scherzarci su con Jim. Anna, mi sembra di impazzire. Quando le due ragazze rientrarono in casa mano nella mano, le danze erano finite. Stavano tutti disponendosi ad andare a dormire. Tommy Nelson stava portando Barnaba e Saul nel fienile. La zia Mauser era ancora seduta sul sofà, intenta a pensare a tutte le disgrazie che potevano capitare l'indomani. Spero che nessuno si alzi a dichiarare qualche motivo per cui i ragazzi non possono essere uniti in matrimonio. Alle nozze di Tilly Hatfield è successo. A Gordon non capiterà mai una fortuna simile, disse il testimone dello sposo. La zia Mauser lo squadrò con impassibili occhi scuri. Giovanotto, il matrimonio non è uno scherzo. Ci può giurare, fu l'allegra risposta. Oh, eccoti, Nora. Quando avremo la gioia di ballare per le tue nozze? Nora non rispose a voce. Gli si avvicinò e lo schiaffeggiò, prima su una guancia e poi sull'altra. E non erano schiaffi finti. Poi salì al piano di sopra, senza voltarsi. Quella ragazza ha i nervi a pezzi, disse la zia Mauser. Capitolo 16. La mattinata del sabato trascorse in un turbine di preparativi. Anna, avvolta in un grembiule della signora Nelson, restò in cucina ad aiutare Nora con le insalate. Nora era velenosa, essendosi evidentemente pentita, come del resto aveva previsto, di essersi lasciata andare a confidenze la sera prima. Saremo tutti sfiniti per un mese, disse acidamente, e papà non potrebbe permettersi tutto questo sfoggio. Ma Sally ci teneva tanto a fare, come dice lei, un bel matrimonio, e papà ha ceduto, l'ha sempre viziata. Invidia, bella e buona, sentenziò la zia Mauser, affacciandosi sulla soglia della dispensa dove stava portando alla disperazione la signora Nelson con i suoi speriamo che non. Ha ragione, disse Nora ad Anna con amarezza, ha perfettamente ragione, la mia è tutta invidia. Detesto vedere la gente felice, però non mi dispiace di aver schiaffeggiato Jude Taylor ieri sera. Mi dispiace solo di non avergli per di più anche tirato il naso. Beh. Abbiamo finito con le insalate. Si presentano bene. Adoro disporre i piattini quando sono in condizioni normali, ma in fondo spero per Sally che tutto vada per il meglio. So di volerle bene, anche se ora mi sembra di odiare il mondo intero e soprattutto Jim Wilcox. Spero solo che lo sposo non sparisca prima della cerimonia, fu il lugubre commento della zia Mauser dalla dispensa. Austin Creed non si presentò, si era proprio dimenticato che doveva sposarsi. I Creed sono sempre stati distratti, però quella volta ha esagerato. Le due ragazze si guardarono e scoppiarono a ridere. Con il riso il volto di Nora si trasformò. si illuminò, si accese, si animò. Poi arrivò qualcuno a dire che Barnaba aveva vomitato sulle scale. Troppi fegatini di pollo, probabilmente. Nora si precipitò a riparare al malfatto e la zia Mauser uscì dalla dispensa solo per augurarsi che non sparisse la torta nuziale, come era successo 10 anni prima alle nozze di Alma Clark. Per mezzogiorno tutto era stato preparato a puntino: la tavola apparecchiata, i letti rifatti con la biancheria migliore e i fiori disposti in cestini in ogni angolo della casa. Al piano superiore, nella grande camera nord, Sally e le tre damigelle rifulgevano di tremulo splendore. Anna aveva indossato l'abito verde acqua con il cappellino in tinta e, guardandosi allo specchio, si rammaricò che Gilbert non potesse vederla. «Sei un incanto», disse Nora con un pizzico di invidia. «Anche tu sei un incanto, Nora. Quell'abito di chiffon azzurro polvere e quel cappellino con la tesa larga fanno risaltare i tuoi capelli di seta e l'azzurro cupo dei tuoi occhi. Ah, non c'è nessuno a cui devo piacere», disse Nora con amarezza. «Beh, guarda come sorrido ora, Anna. Non posso certo fare la guastafeste. E poi devo suonare la marcia nuziale. Vera ha un terribile mal di testa. Al mio umore si adatterebbe di più la marcia funebre, penso, come previsto dalla zia Mauser». La zia Mauser, che aveva girato per casa tutta la mattina intralciando tutti con una vecchia vestaglia non troppo pulita indosso e un berretto da notte sformato in testa, appariva ora nel suo pieno splendore con l'abito di grosgrain color ruggine. Fece notare a Sally che una delle maniche non cadeva a dovere e disse di sperare che non spuntasse la sottoveste sotto l'abito delle damigelle, come era successo alle nozze di Annie Creuson. Poi entrò la signora Nelson e si mise a piangere vedendo Sally vestita da sposa. «Su, su, non essere sentimentale, Jane», disse la zia Mauser per consolarla. «Ti resta ancora una figlia e, a quanto sembra, ti resterà ancora per un po'. Non porta bene piangere alle nozze. Beh, spero solo che qualcuno non ci rimanga stecchito come il vecchio zio Cromwell al matrimonio di Roberta Pringle, proprio nel bel mezzo della cerimonia. Per lo spavento, la sposa passò 2 settimane a letto». Con questa incoraggiante benedizione, il corteo nuziale scese le scale al suono della marcia nuziale eseguita con irruenza da Nora, e Sally e Gordon furono uniti in matrimonio senza che nessuno restasse stecchito o dimenticasse gli anelli. Fu davvero una bella cerimonia, e persino la zia Mauser rinunciò per qualche minuto a esprimere timori di vario genere. «Dopotutto», disse più tardi a Sally in tono di ottimismo, «anche se non sarai felice da sposata, lo saresti ancora meno senza marito». Soltanto Nora, seduta davanti al pianoforte, mantenne la sua espressione accigliata, ma poi si alzò e strinse in un forte abbraccio Sally, velo da sposa e tutto. «Così è finita», disse cupamente Nora al termine del pranzo, quando i testimoni e la maggior parte degli ospiti erano già andati via. Diede un'occhiata alla sala, nello stato di triste disordine di tutte le sale dopo una festa, un mazzolino di fiori avvizzito e calpestato, abbandonato a terra, le sedie smosse, una gala di pizzo strappata, 2 fazzoletti, briciole lasciate dai bambini e una macchia nera sul soffitto, là dove era filtrata l'acqua di una brocca rovesciata dalla zia Mauser in una stanza del piano di sopra. «Bisogna rimettere tutto a posto», continuò Nora con tono feroce. Molti dei ragazzi aspettavano il treno e alcuni si sarebbero fermati fino all'indomani. Per concludere l'opera, faranno un falò sulla spiaggia e un ballo al chiaro di luna. Vorrei solo andare a letto a piangere, disse Nora. Già dopo un matrimonio le case mettono un po' di tristezza, disse Anna, ma ti aiuterò a sistemare tutto e poi ci berremo una tazza di tè. Anna Shirley, ma credi davvero che il tè sia una panacea per tutti i mali? Dovresti essere tu la vecchia zitella e non io. Non intendo essere antipatica, ma evidentemente questa è la mia natura. Odio questo ballo sulla spiaggia più ancora delle nozze. Jim era sempre presente ai balli sulla spiaggia. Anna, ho deciso di fare l'infermiera. So che odierò quel lavoro, il cielo aiuti i miei futuri pazienti, ma non voglio più stare a Summerside e sentirmi prendere in giro come quella che non trova marito. Beh, dedichiamoci a questa pila di piatti unti e facciamo finta di divertirci, va? Ma io mi diverto davvero, mi è sempre piaciuto lavare i piatti. È divertente far tornare a splendere le cose sporche. Oh, dovresti stare in un museo, disse seccamente Nora. Al sorgere della luna, tutto era pronto per la danza sulla spiaggia. I ragazzi accesero sul promontorio un enorme falò di legna raccolta lì attorno. Le acque della baia scintillavano, spumeggiando sotto i raggi lunari. Anna stava già pregustando il divertimento quando uno sguardo al viso di Nora, che scendeva le scale con un cestino di panini imbottiti, la fece riflettere. È tanto infelice. Se potessi aiutarla. Un'idea si affacciò alla mente di Anna. Spesso Anna agiva d'istinto. Si precipitò in cucina. Afferrò un lume acceso, corse su per le scale di servizio e poi su per un'altra scala fino in soffitta. Mise il lume sul davanzale dell'abbaino che si affacciava sulla baia. Gli alberi lo nascondevano alla vista del gruppo sulla spiaggia. Può darsi che Jim Wilcox lo veda e venga, pensò Anna. Nora sarà furibonda con me, ma non importa, purché lui venga. E ora andiamo a impacchettare un pezzo della torta nuziale da portare a Rebecca Dew. Jim Wilcox non venne. Dopo un po', Anna rinunciò ad aspettarlo e, presa dall'allegria della serata, dimenticò tutta la faccenda. Nora era scomparsa e, caso strano, la zia Mauser era andata a letto. Alle 11 la baldoria finì e i ragazzi salirono sbadigliando le scale. Anna aveva tanto sonno che non pensò più alla luce nell'abbaino, ma alle 2 di notte la zia Mauser entrò, quatta quatta, nella stanza delle ragazze e puntò loro una candela al viso. «Mio Dio, che è successo?» disse con voce strozzata Dot Fraser saltando sul letto. «Scht!» l'ammonì la zia Mauser con gli occhi quasi fuori dalla testa. «Credo che ci sia qualcuno in casa, sono sicura!» «Cos'è quel rumore? Sembra un gatto che miagola o un cane che abbaia!» disse Dot. «Niente affatto!» disse severamente la zia Mauser. «So che c'è un cane che abbaia nel fienile, ma non è stato lui a svegliarmi. Era un tonfo, decisamente un tonfo e forte anche!» Da fantasmi, ectoplasmi, notturne bestie striscianti e sobbalzanti. Liberaci, oh Signore, citò Anna sottovoce. Signorina Shirley, non c'è proprio niente di divertente. Ci sono i ladri in casa. Vado a chiamare Samuel. La zia Mauser scomparve e le ragazze si guardarono dubbiose. Pensi che tutti i regali di nozze sono nella biblioteca? Disse Anna. Comunque ora mi alzo, disse Mami. Anna, hai mai visto niente di simile alla faccia della zia Mauser quando ha abbassato la candela e le ombre si sono allungate all'insù tra quei capelli da spiritata, altro che la strega di Endor? Quattro ragazzi in vestaglia uscirono cautamente sul ballatoio. C'era già la zia Mauser con il dottor Nelson, anche lui in veste da camera e pantofole. La signora Nelson, non essendo riuscita a trovare la vestaglia, restò affacciata alla porta della camera con aria terrorizzata. Oh! Samuel, non correre rischi, se sono ladri potrebbero anche sparare. Sciocchezze, credo che non ci sia nessuno, disse il dottore. Ti dico che ho sentito un tonfo, ribatté la zia Mauser tremebonda. Un paio di ragazzi si unì al gruppo che si avviò prudentemente giù per le scale. In testa c'era il dottore e alla retroguardia la zia Mauser con una candela in una mano e un attizzatoio nell'altra. Indubbiamente dalla biblioteca provenivano dei suoni. Il dottore aprì la porta ed entrò. Barnaba, che era riuscito a farsi dimenticare in biblioteca quando Saul era stato portato nel fienile, se ne stava sull'ampio schienale del divano, socchiudendo gli occhi con aria divertita. Al centro della stanza, debolmente illuminata da una candela vacillante, c'erano Nora e un giovanotto. Il giovanotto teneva Nora tra le braccia e le premeva sul viso un grande fazzoletto. «Sta addormentandola con il cloroformio!» strillò la zia Mauser e mollò l'attizzatoio che cadde a terra con tremendo fracasso. Il giovanotto si voltò, lasciò la presa sul fazzoletto e si guardò intorno con aria stranita. Era però una figura simpatica, con occhi castano-ruggine, che denotavano un'abitudine al sorriso, ricci capelli fulvi e un mento che più mento di così non poteva essere. Nora raccattò il fazzoletto e se lo portò al volto. «Jim Wilcox, che significa questo?» disse il dottore con tono estremamente severo. «Sono io a non saperlo», disse con aria imbronciata Jim Wilcox. «So soltanto che Nora mi ha trasmesso il segnale. Non ho visto la luce finché non sono tornato da Summerside, dove ero stato a un banchetto di massoni. Ho preso subito la barca e sono venuto qui. Io non ti ho trasmesso nessun segnale, disse Nora furibonda. Per amor del cielo, non fare quella faccia, papà. Non dormivo. Ero seduta alla finestra della mia camera. Non mi ero ancora spogliata. Io ho visto un uomo che saliva dalla spiaggia. Quando si è avvicinato a casa ho riconosciuto Jim e sono corsa da basso e ho battuto contro la porta della biblioteca facendomi sanguinare il naso. Lui stava cercando di fermare il sangue. Sono entrato con un salto dalla finestra e ho rovesciato quella panca. L'avevo detto io che c'era stato un tonfo, disse la zia Mauser. Ma siccome Nora dice di non avermi fatto segnali, toglierò il disturbo, scusandomi con tutti i presenti. È un vero peccato che tu ti sia precipitato fin qui, togliendo ore al sonno per poi non fare un becco all'oca, disse Nora gelidamente, cercando un angolo di stoffa non insanguinato sul fazzoletto di Jim. Oca è proprio la parola adatta in questo caso, disse il dottore. Sarà meglio che provi a fermarlo con una chiave giù per la schiena, disse la zia Mauser. Sono stata io a mettere il lume alla finestra, disse Anna, piena di vergogna. E poi me ne sono dimenticata. Come hai osato? Esclamò Nora. Non ti perdonerò mai. Siete tutti impazziti? Disse con irritazione il dottore. Cosa sono tutte queste chiacchiere? Per amor del cielo, abbassa quella finestra, Jim. Sta entrando un vento che gela le ossa. Nora, tieni indietro la testa e andrà tutto a posto. Nora piangeva lacrime di collera e umiliazione. Insieme al sangue che le imbrattava il viso, la rendevano brutta da far spavento. Jim Wilcox aveva l'aria di chi vorrebbe sprofondare sotto il pavimento e finire in cantina. Bene, disse bellicosamente la zia Mauser. Ora non le resta altro che sposarla, Jim Wilcox. Non troverà mai marito se si saprà in giro che era sola con lei alle 2 di notte. Sposarla? Esclamò Jim esasperato. Ma se non ho mai desiderato altro in vita mia. Mai altro ho desiderato. E allora perché non l'hai detto prima? Chiese Nora, voltandosi e affrontandolo. Già, a dirlo, ma se in tutti questi anni mi hai sempre mortificato, raggelato e deriso. Non si contano le volte che hai fatto di tutto per mostrarmi quanto mi disprezzavi. Non credevo che servisse chiedertelo. E poi a gennaio hai detto: mi ci hai portato tu a dirlo. Ti ci ho portato io? Questa è bella. Hai litigato solo per liberarti di me. Non è vero. Io sono stato tanto pazzo da precipitarmi fin qui nel cuore della notte perché credevo che avessi messo il segnale alla finestra e avessi bisogno di me. Chiederti di sposarmi. Bene, te lo chiederò ora, una volta per tutte, così potrai avere la soddisfazione di respingermi davanti a tutta questa gente. Nora Edith Nelson, vuoi sposarti? Oh, certo che sì, esclamò Nora senza il minimo ritegno, riuscendo a far arrossire persino Barnaba. Jim le lanciò un'occhiata incredula, poi balzò con impeto ad abbracciarla. Chissà se il naso non sanguinava più. Comunque non aveva importanza. Mi sembra che abbiate dimenticato che la domenica è già incominciata, disse la zia Mauser, avendolo ricordato solo allora. Prenderei volentieri una tazza di tè se qualcuno volesse farlo. Non sono abituata a espansioni del genere. Spero solo che la povera Nora l'abbia finalmente acchiappato. Comunque ha dei testimoni. Andarono in cucina e la signora Nelson scese a preparare il tè. Ma Nora e Jim restarono rintanati nella biblioteca sotto la sorveglianza di Barnaba. Anna non vide più Nora fino al mattino seguente. Era una Nora diversa, di 10 anni più giovane, con il volto rischiarato dalla felicità. Devo tutto a te, Anna, se non avessi messo quel lume. Ma ci sono stati un paio di minuti ieri sera in cui ti avrei volentieri mangiata viva. E pensare che io ho dormito e mi sono perso tutto, disse con un gemito Tommy Nelson. Ma l'ultima parola la ebbe la zia Mauser. Beh, spero solo di non dover dire presto: chi in fretta si sposa si pente senza posa.